Ritmato Italia Rimini Discoteca Altro Mondo Ponto 31 dicembre 2005 Gigi D'Agostino Luca Nois Provenzano DJ Roberto Molinaro Capodanno Ballato Passetto Ritmato. Sei con Gigi D'Agostino su M2O. Luce, dimmi che soffri dopo 9 ore quella lì.

l'elettro show di Gigi D'Agostino dal vivo domenica sera 25 dicembre 2005, ore 23:30, discoteca Moana, viale Francesco Sirimarco 41, località Tortora, Cosenza. Lunedì sera 26 dicembre 2005, ore 23:30, Pala Liceo, via Campo Sportivo, località Bisignano, Cosenza. Fine prima parte. Show di Gigi D'Agostino, seconda parte, martedì sera 27 dicembre 2005, ore 23:30, discoteca Opera, via Padre Pio da Petralcina, località Castrovillari, Cosenza. Mercoledì sera 28 dicembre 2005, ore 23:30, discoteca Hotel Gronchi, via Sandro Pertini 3, località Aquilonia, Avellino. Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Could you, stranger, release my soul? I don't wanna hide the way he did a long time ago. Bring me to life. Shadows are crossing my mind. I can see the light. You're still an angel. For me, it's a sign. Make me feel special. Constatazione